Storie italiane. Pocahontas. C'era una volta, nelle foreste del Sud America, una tribù. Powhatan era il capo della tribù e Pocahontas era sua figlia. Vediamo una giungla dove molte ragazze stanno raccogliendo bacche e fiori. A Pocahontas non piaceva quello che stava facendo. Infatti era in ritardo. Stava lavorando per fare il suo boomerang. Vieni, Pocahontas! Dobbiamo essere a casa prima del tramonto e il tuo cestino è vuoto! Perché? Voglio stare qui e guardare le stelle e sentire i grilli e i gufi. Non voglio raccogliere bacche. Lanciò il suo boomerang su un ramo e un sacco di bacche caddero nel suo cesto. Le ragazze sospirarono. Lei indicò una grotta sulla montagna, in alto. Non sarebbe bello passare la notte lì? Sarà quasi come toccare le stelle. Le ragazze non dovrebbero fare queste cose. Questo genere di sciocche avventure sono per ragazzi. Nessuna ragazza può salire così in alto. Dovresti essere nata ragazzo. Ti comporti proprio come uno di loro. Non dovevo nascere ragazzo. Una ragazza può fare tutto ciò che può fare un ragazzo, anche meglio. Pocahontas lasciò il gruppo e corse verso la montagna. Pocahontas, torna indietro! Pocahontas, torna indietro! Pocahontas, torna indietro! Ma non c'era niente che potesse fermare Pocahontas. Scalò la montagna e arrivò nella grotta. All'ingresso della grotta vide una piccola civetta caduta dal suo albero. Era spaventata e Pocahontas la prese. Ehi, amico! Dov'è la mamma? Vieni qui, mostrami il tuo albero. Si arrampicò sull'albero e rimise la piccoletta nel suo nido. Poi si sedette sul ramo. Si voltò e guardò il cielo. Wow! Allungò la mano, quasi fino a toccare le stelle. Sospirò. Ah. La mattina dopo, Pocahontas ebbe proprio un bel risveglio. Svegliati, Pocahontas. Stai bene? Padre! Ho chiesto, stai bene? Sì, sì, sto bene. Sai quanto ero preoccupato? Un animale avrebbe potuto attaccarti. Ti sarebbe potuto accadere qualsiasi cosa. Vedi? Ho acceso un fuoco. Ero al sicuro. Gli animali della foresta mi conoscono. Non mi farebbero del male. Basta. Vieni a casa. All'improvviso tutti sentirono dei forti rumori. Powhatan chiese ai suoi uomini di controllare. Dalla cima della montagna videro, molto più in basso, appena fuori dalla loro foresta, un'enorme carovana di carri, cavalli e persone. Il loro capo si chiamava Governatore. Costruiremo la nostra città qui. Per stanotte ci accamperemo nelle tende. Domani inizieremo a costruire. Urrà! Sì! Sì! Sì! Sì! Powhatan e la sua tribù erano preoccupati di chi fossero queste nuove persone. Cosa volevano? Li terremo sotto controllo. Gli porteremo dei doni. Cerchiamo di capire chi sono e forse quando sarà il momento potranno unirsi alla nostra tribù. E io dominerò su tutti loro. Così la tribù riempì ceste di frutta e di noci di cocco, barattoli di marmellata di bacche e sacchi di grano e andò al campo dove si trovavano gli stranieri. Siete ospiti nella nostra parte del mondo. Per favore, accettate alcuni regali. Grazie mille, capo Powhatan. Accetta la nostra sentita gratitudine. Così Powhatan e il suo popolo continuarono a portare provvista agli stranieri. Gli stranieri accettarono i doni e in cambio gli diedero coperte e corde e cose del genere. Avevano una buona amicizia, ma i due capi avevano in mente qualcos'altro. Queste persone stanno nella nostra foresta, sulla nostra terra. Devono diventare parte della nostra tribù. Se non accetteranno di essere guidati da me, gli faremo guerra il giorno dopo la luna piena. Sì, lo faremo! Sì, lo faremo. Sì, lo faremo. Ma padre... Non è una questione di cui discutere con le ragazze. Guarda tutta quella legna, la frutta e il grano, per non parlare delle pelli di animali che possiamo ottenere dalla foresta. Dobbiamo prendere il controllo. Faremo guerra a loro il giorno dopo questa luna piena. Sì, lo faremo, lo faremo. Sì, lo faremo, sì, lo faremo. Sì, vinceremo, sì, vinceremo. Pocahontas non era contenta del fatto che la sua gente facesse guerra agli altri solo per renderli membri della loro tribù. Persa nei suoi pensieri, andò a camminare nella foresta, quando sentì dei suoni vicini alla cascata. Pocahontas andò a dare un'occhiata più da vicino. Il cucciolo morirà! Pocahontas corse a salvare il cucciolo. Pocahontas e John Smith furono condotti a valle, proprio nel fondo della foresta. Pocahontas lo trascinò fuori dall'acqua. Era ormai notte. Stai bene? Sì. La mia testa sembra una roccia. Hai rischiato la vita per salvarmi. Hai rischiato la vita per salvare quell'animale. Un cucciolo. L'animale era un povero cucciolo indifeso che hai quasi ucciso. Sono cose che capitano. Il cucciolo sarebbe dovuto scappare quando ha visto l'albero cadere. Non puoi andare in giro a proteggere ogni animale della foresta. Parli di animali come se appartenessero ad un altro mondo, come se fossero una specie di strani esseri. È la regola della giungla, la legge del più forte. All'improvviso vide qualcosa e disse a Pocahontas: «Shh, non muoverti!» Vediamo un cobra a terra. John Smith prese una pietra per lanciarla sul serpente. «Fermati!» Si precipitò avanti e si inginocchiò davanti al serpente. «Non ti faremo del male, piccolo, lo prometto. Se non ti piacciamo, ti lasceremo in pace. Scusa, ti abbiamo disturbato.» Il serpente sembrò ascoltarla e poi strisciò via. «Rischiare la vita è una specie di hobby per te?» «Mi annoio, lasciatemi quindi rischiare la vita. Questo dovrebbe essere divertente.» «Guarda la tua faccia!» «Legge del più forte, eh? Un piccolo serpente può farti impazzire e tu ti senti più forte? Chiunque può sentirsi potente se ha un'arma in mano. Cosa ne pensi di questo?» «No, io avevo paura per te. Tu hai appena parlato con il serpente. Come ha capito cosa stavi dicendo?» «Il mondo intero, ogni creatura, ogni foglia, ogni fiore, tu, io, il cielo, l'arcobaleno e le stelle. Facciamo tutti parte della stessa famiglia e tutti possiamo imparare a parlare l'un l'altro con il linguaggio dell'amore.» «Linguaggio dell'amore?» «Il linguaggio dell'amore è quando non vuoi ferire nessuno, quando desideri il bene di ogni creatura e quando rispetti il diritto alla vita di ogni creatura. Questo è il linguaggio dell'amore che ogni essere umano comprende.» Arrivò un uccellino e si mise sulla spalla di Pocahontas. «Ehi, piccolo! Perché non ci provi?» «Io?» «Parlaci con tutto l'amore che è nel tuo cuore.» «Ok.» Fece un sorriso falso e quasi malvagio. L'uccello si spaventò e si nascose dietro la testa di Pocahontas e fece capolino. «Vieni qui, uccellino. Non ti farò del male. Non funziona.» «Devi volerlo dal profondo del tuo cuore. Lo devi volere davvero.» E John Smith cercò di raccogliere tutto l'amore nel suo cuore questa volta lo voleva davvero. Tese il braccio e sorrise con sincerità. L'uccello lo vide e volò verso di lui. L'uccellino cantò e molti altri uccelli arrivarono. Si misero sulle sue braccia, sulle spalle, sulla testa e anche su quelle di Pocahontas. Questa è magia! Due coppie di uccelli scesero giù con una corona di fiori ciascuna. Una coppia posizionò la corona sulla testa di Pocahontas e l'altra cercò di posizionarla sulla testa di John Smith. La sua corona però non andava bene, così gli uccelli cercarono di ingrandirla tirando con i loro becchi, ma non ci riuscirono e caddero. Uno di loro si arrabbiò e spettinò tutti i capelli di John Smith e volò via. John Smith sembrava davvero buffo con i capelli arruffati. Guardò il suo riflesso nell'acqua e così scoppiò a ridere insieme a Pocahontas. Anche gli uccelli iniziarono a ridere e volarono via. John Smith vide ridere Pocahontas. Lui la amava. Tutto tacque. John Smith guardò Pocahontas. Sei bellissima. Grazie. Per cosa? Mi hai salvato la vita. Grazie mille. Mio Dio. Cosa c'è? La tua gente dovrebbe andare via da qui. No. Tutti voi dovreste scappare. Scappare? Sì, oggi è il giorno dopo la luna piena. Il nostro capo sta pianificando di attaccare la tua tribù. Perché? Per prendere il controllo dell'intera foresta. E mio padre vuole aggiungere la tua gente alla gente della sua tribù. Dobbiamo fermarli. Come? Vieni con me. I gruppi di Powhatan e del governatore si stavano preparando per la guerra. Avevano marciato per attaccarsi a vicenda. Che la vittoria sia con noi! Vinceremo! Vinceremo! Vinceremo! Vinceremo! Vinceremo! Vinceremo! Vinceremo! Fermi! Ah! La figlia di Powhatan! Cosa stai facendo qui? Sto cercando di fermare questa guerra. Non porterà altro che rovina ad entrambi i nostri popoli. Alla tua gente! Stiamo per prendere il controllo della tua foresta. La foresta non appartiene solo a noi umani. Appartiene più agli alberi e alle sue creature. Ci danno cibo e riparo. Ci danno la vita e noi non diamo loro nulla in cambio, ma comunque condividono con noi la loro casa. Perché non facciamo lo stesso? Basta! Questi sono solo trucchi di Powhatan per salvarsi da noi! All'improvviso arrivò il cucciolo di leone che Pocahontas aveva salvato e leccò Pocahontas. Un bambino del campo del governatore andò lì, affascinato dal cucciolo. Il cucciolo e il bambino diventarono amici. Poi si udì un ruggito. Un leone uscì maestosamente dalla foresta. Che cosa? Salvate il bambino! Salvate il bambino! Salvate il bambino! Salvate il bambino! Gli uomini del governatore puntarono le loro pistole contro il leone, ma videro che il cucciolo di leone si era alzato per proteggere Pocahontas e il bambino, come se stesse comunicando con loro. Il bambino era così affascinato dal leone che andò avanti e gli toccò il suo naso. E tutti e due risero. Gli uomini del governatore prepararono i loro fucili. Proprio in quel momento, John Smith arrivò lì con la tribù di Powhatan. Fermatevi, per favore, fermatevi. Guardate, se l'uomo e la bestia possono diventare amici, perché uomo e uomo non possono fare lo stesso? Invece di combattere una guerra e ucciderci a vicenda, perché non possiamo semplicemente cominciare a vivere insieme pacificamente? Finalmente gli umani impararono che umani e umani, umani e animali, devono vivere insieme in armonia per avere una vita pacifica e gioiosa.